Radio 24 presenta Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. Ci sono spettacoli che sono più di un semplice divertimento. Non servono solo a intrattenere. Sono dei veri e propri eventi che catturano l'attenzione dei media e del pubblico mesi prima di cominciare e la mantengono anche una volta finiti. Certi show entrano con forza nella tradizione di un paese e ne fanno da specchio. In America, il Super Bowl, la finale del campionato di football, l'evento sportivo più importante dell'anno, è in grado di inchiodare davanti alla TV l'intera nazione. La stessa cosa in Italia avveniva con il Festival di Sanremo, in onda via radio per la prima volta il 29 gennaio 1951 e condotto da Nunzio Filogamo, storico presentatore Rai. Qui Roma, a voi Genova, qui Milano, a voi Cagliari, a voi Torino, a voi Sanremo. Miei cari amici vicini e lontani, buonasera. Dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo trasmettiamo la prima serata del Festival della Canzone Italiana. Sono gli anni 50 e si ritorna a sognare dopo la fine della terribile guerra. C'è entusiasmo, voglia di guardare avanti, di voltare pagina. Fioriscono i cantieri, riaprono i cinema, le sale da ballo si riempiono di giovani che arrivano in Vespa, i più fortunati con la Topolino piena di amici. Insomma, le città tornano a vivere con vibrante ottimismo. E Sanremo sintetizza lo spirito di un'epoca, la voglia di ricominciare a cantare. Per la televisione bisogna aspettare ancora qualche anno e le nuove canzonette dai motivi orecchiabili passano tutte dalla radio. E chi lavora alla radio è un vero mito, come racconta Renzo Arbore. Hanno fatto praticamente la storia della radio quando le canzoni andavano in diretta, quando c'erano le orchestre che suonavano in diretta in tutte le ore della giornata, loro facevano i turni quando i microfoni erano veri. Il primo festival è molto diverso da quello di oggi. C'è fermento, grande energia, un po' di incoscienza. È una novità affascinante, ma anche una sfida. E non c'è ancora spazio per le polemiche e gli scandali che si succederanno edizione dopo edizione. Il pubblico in studio, si registra dal Casinò, paga 500 lire a biglietto e assiste seduto ai tavolini da bar, con tanto di camerieri che vanno e vengono. I cantanti che si alternano sul palcoscenico sono praticamente in tre: Achille Togliani, il duo Fasano e Nilla Pizzi. L'idea iniziale era di far svolgere il festival su una nave da crociera, un'idea che viene subito scartata perché in mezzo al mare la qualità del suono sarebbe stata pessima. Nilla Pizzi, che sarà protagonista a Sanremo per diverse stagioni, vince il primo festival con la canzone Grazie dei Fior. Al momento della premiazione, però, nessuno ha pensato a un omaggio floreale per lei e così gli uomini della produzione si guardano intorno e rimediano in fretta e furia alcuni garofani quasi appassiti. È un festival artigianale, un po' improvvisato, ma genuino. E Nilla lo ricorderà per sempre. Una grande emozione che non dimenticherò mai. Sanremo è immediatamente un successo. Delle canzoni in gara si vendono 80.000 copie, 36.000 solo della Pizzi, che diventa una vera e propria star, al punto che l'anno dopo si aggiudicherà primo, secondo e terzo posto. Le case discografiche hanno sottovalutato l'avvenimento e sono costrette a stampare velocemente i dischi. Lo stesso Filogamo è colto impreparato dal risultato eccezionale e viene travolto in un vortice di interviste e servizi fotografici. È lui stesso a raccontarlo. Perché io non pensavo proprio quella sera che questo spettacolo avrebbe preso uno slancio così. E invece il pubblico ha gradito di vedere questi giovani che cominciavano la loro carriera, voleva dire la loro vita. Ma se l'amore nostro si è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore? In mezzo a quelle rose ci sono tante spine, memorie dolorose di chi ha voluto bene, son pagine già chiuse con la parola fine. Di Del festival si comincia a parlare ovunque. È uno spettacolo di grande effetto che ha conquistato grandi e piccoli. E se tutti sono entusiasti di Sanremo, per chi fa musica quel palco diventa presto un vero e proprio obiettivo da raggiungere. È un'ambizione che può davvero aprire le porte della fama. È la strada giusta per entrare nel cuore della gente. Ogni cantante del periodo non vede l'ora di essere accolto a braccia aperte nella città dei fiori ed esibirsi di fronte al pubblico in sala che fa anche da giuria. È così anche per un giovane di quasi 30 anni che fa già il cantante ma sogna il grande successo. È un ragazzo dall'aria buffa, gli occhi che guardano in giù e il sorriso sempre stampato in faccia. Il suo nome è Gennaro Latilla, ma da tutti si fa chiamare Gino Latilla. Gino Latilla. Il grandissimo cantante Gino Latilla. Gino, seduto sul divano di casa con amici e parenti in religioso silenzio, ascolta tutto il festival alla radio e con l'orecchio ben teso per non perdersi neanche un secondo. È affascinato da quell'atmosfera ed eccitato dalla sfida. Sente che il festival potrebbe essere la sua grande occasione, l'opportunità che aspetta da una vita. Fin da quando, già piccolissimo, faceva musica. Gino nasce a Bari nel 1924, a novembre, quando cominciano a farsi sentire i primi freddi dell'inverno e bisogna riscaldarsi come si può, tra stufe accese e coperte fatte a mano con gli avanzi della lana usata per i maglioni. La situazione non è ancora allarmante, ma due anni prima c'è stata la marcia su Roma e Mussolini detiene già il potere. Mentre l'Italia si prepara al suo periodo autarchico di profondo ripiegamento verso l'interno, in tutto il mondo si respira un'aria frizzante, fresca, di rinnovamento. André Breton, a Parigi, scrive il manifesto del surrealismo. L'America si diverte con le gag di Buster Keaton. E in Germania, grazie ai film espressionisti, la cinematografia è florida, seconda solo a quella di Hollywood. Un titolo su tutti? I Nibelunghi, diretto da Fritz Lang. Il piccolo Gino cresce in un contesto vivacissimo e stimolante. E già da quando è ancora in fasce sente il profumo dello spettacolo. Suo padre Mario, infatti, era un avvocato che aveva intrapreso la carriera di tenore leggero con non poche difficoltà, dovute al fatto che la moda del tempo proibiva agli artisti di presentarsi in pubblico con gli occhiali. Ma con tenacia e volontà Mario ce l'aveva fatta, diventando uno dei più grandi interpreti degli anni 30. Lo raccontano così due critici, Sandro Alba e Massimo Baldino. È una compagnia di rivista sua, quindi girava i teatri italiani portando in giro i propri spettacoli con una compagnia propria. Però poi anche la carriera di Mario Latilla comunque. Più che è una stata compagnia, lunga. Forse un'orchestra. No, avevo una compagnia di rivista proprio, con tanto di ballerine al seguito. Ma questo l'ho ricavato dai cosiddetti coppini, che sono quei fogli dove venivano scritti i testi delle canzoni e le attività dei cantanti, cose scomparse. Sei come il vento, perché distruggi quel che vuoi tu. Mario ha una scuola di musica e il piccolo Gino passa le giornate tra gli strumenti. Prima ci gioca, poi li prova uno a uno inventando melodie. Mario lo incoraggia, capisce che suo figlio può fare strada. Rivede in Gino il suo entusiasmo, la sua voglia di cantare, di esibirsi, e gli insegna i trucchi del mestiere. D'altra parte Mario è davvero un talento speciale, un precursore dei tempi, con una marcia in più. Lo sentiamo dalle parole di Alba e Baldino. Sapeva passare da una canzone drammatica come questa a la canzonetta di rivista, alla macchietta. Alla Torre di Pisa. No? Non solo, sì, fino ad arrivare alla Torre di Pisa, da Evviva la Torre di Pisa, che è stato poi il suo cavallo di battaglia, tra virgolette, più quello dei discografici, credo, che continuano a riproporlo solo in Evviva la Torre di Pisa, dimenticando poi tutta l'attività che invece è stata notevole di Mario Latilla. Ieri un magnifico vaso mi cadde sul naso dal decimo piano e con un dolce sorriso mi misi allora a cantare. Viva la Torre di Pisa, che pende, ma sempre sta su. Mario cerca di trasmettere a Gino la disinvoltura che ha lui sul palcoscenico e che gli permette di alternare brani dal sapore romantico e struggente a canzonette ironiche e irriverenti. Lo porta con lui in tournée, in quei locali alla moda che se lo contendono, come il Savioli di Riccione o l'Embassy di Rimini. Gino assapora l'energia dell'orchestra, viene catturato dalle signore eleganti in prima fila, sogna di diventare un cantante famoso. Continua a studiare musica, a esercitarsi con solfeggi e vocalizzi, a provare i pezzi che all'epoca stanno spopolando. E negli anni 40, nel periodo della guerra, è finalmente pronto per il grande debutto. Bologna, Teatro Manzoni. Non c'è molta gente sulle poltroncine rosse e ci si annoia. Per ingannare l'attesa, qualcuno cerca di scambiare due parole con il vicino di posto, finché si apre il sipario. E Gino, impettito per dissimulare la grande emozione, è al centro del palco con il microfono davanti. Dietro le quinte, Mario tiene le dita incrociate. È solo un debutto, certo, non è così determinante. Ma se andasse bene per Gino, la strada della canzone sarebbe tutta in discesa. Prime note, Gino inizia a sudare. Guarda suo padre in cerca di sostegno e Mario annuisce con fermezza. Vuole dargli fiducia. Sa che Gino può farcela, ha un grande talento. La canzone si intitola Mai Lu e già dalle prime strofe attira l'attenzione del pubblico che smette di chiacchierare per ascoltare. Gino prende forza, legge l'apprezzamento sui volti in sala e quando finisce è un tripudio di applausi. In poco tempo si sparge la voce di questo nuovo cantante. La sua voce e il suo carisma gli fanno raggiungere una discreta fama, al punto che Mario decide di abbandonare il palcoscenico per dedicarsi interamente al management del figlio. Iva Zanicchi, altra grande protagonista della canzone italiana, ricorda con queste parole l'accoglienza che sarebbe stata riservata ai pezzi di Gino. In giro per i locali, le sale da ballo, i teatri, cantavo questa canzone e la gente si strappava i capelli. Dall'entusiasmo. Sopra le bianche cime di nevi eterne immacolate al sole, cogliemmo le stelle alpine per farne un dono d'un lontano amore. Vecchio scarpone come un tempo lontano, in mezzo al fango con la pioggia e col sol, forse sapresti se volesse il destino camminare ancora. Vecchio scarpone, cantata dalla Tilla con Giorgio Consolini, si aggiudica il terzo posto a Sanremo 1953. Gino finalmente ce l'ha fatta, è salito su quel palco e l'ha affrontato in un modo tutto suo. Sono passati 3 anni dalla prima edizione e quest'anno il festival è molto diverso. È un evento troppo importante, è un fenomeno di costume in grado di muovere montagne di soldi e non si scherza. L'atmosfera familiare e bonaria dei primi 2 anni è finita per sempre. Per la prima volta la giuria è composta, oltre che dal pubblico del Casinò, anche dai radioabbonati sorteggiati dalle 16 sedi RAI sparse per la penisola. I partecipanti si presentano non più soli, ma in coppia. E ci sono 2 orchestre che accompagnano le esibizioni, una più tradizionale diretta da Cinico Angelini e una più moderna diretta da Armando Trovajoli, appassionato di jazz. E così, di fianco ai nomi classici come Nilla Pizzi e Achille Togliani, c'è spazio anche per i giovani, dai ritmi più audaci e lo spirito eccentrico e scanzonato, come Teddy Reno, Flo Sandons e lo stesso Gino, che Alba e Baldino definiscono così. Gino è un cantante, se vogliamo, di impronta moderna, assolutamente moderna. Io sono sicuro che potrebbe ancora oggi interpretare splendidamente alcune canzoni importanti di cantautori degli anni 70 o degli anni 80, Gino Latillo. D'altra parte, il paese ha bisogno di aria nuova, di vivacità e di freschezza. E le nuove generazioni sono stanche di motivetti sempre uguali, di quelle melodie che anche oggi vengono definite sanremesi. Quasi Sanremo fosse diventato anche un vero e proprio genere musicale. Gino è diverso dagli altri, sta mettendo in pratica tutti gli insegnamenti del padre, vuole dare un tocco nuovo, ironico, divertente alla canzone italiana, un tocco che sia un'apertura verso il mondo. Soprattutto vuole guardare verso quel luogo in cui i giovani stanno diventando i protagonisti della società, l'America. Negli anni 50 l'America, incontenibile d'entusiasmo dopo i disastri della guerra, esplode. Le nascite aumentano di mese in mese, dando origine a un vero e proprio baby boom. E i ragazzi iniziano a essere insofferenti alla morale borghese. I loro modelli sono quegli antieroi in motocicletta, jeans e capelli schiacciati dalla brillantina, che hanno i volti di James Dean e Marlon Brando. Il primo è il ribelle senza causa e senza bandiera di Gioventù bruciata. Il secondo, il randagio romantico e rozzo protagonista di Il selvaggio. E mentre fioriscono i drive-in, nei bar spuntano i mitici jukebox. Basta una monetina e si può sentire la voce di Elvis Presley, che con i suoi leggendari movimenti di bacino e la sua travolgente presenza scenica è diventato l'icona pop per eccellenza. L'atmosfera inquieta ed eccitante è quella raccontata da una serie TV degli anni 70, ma che guarda al passato, Happy Days. Grande protagonista, il playboy dal cuore tenero, Fonzie. Il mio compleanno è vicino, è vero, e mi piacerebbe passarlo con te. Anche a me piacerebbe, sarebbe molto carino. Allora facciamo così, ci sono tutte le altre ragazze, devi arrivare presto e così ti siedi vicino a me. Oh, hai invitato altre ragazze per la tua festa? Sì, è una tradizione, lo faccio ogni anno. Oh, che carino, solo per pura curiosità, esattamente quante ragazze, Fonzie? Giusta domanda, perché quest'anno voglio una cosa straordinaria, il limite è 40. Oh, 40, non ti pare poco? Dici? Ascolta bene, le ragazze che non sono invitate vengono in palestra, sai, e gli farò un discorsetto e loro mi porteranno fuori sulle spalle. No, non occorre che tu venga lì. Gino guarda i film americani, si nutre delle canzoni rock del periodo, si informa come può sulle novità. Vuole essere moderno, al passo coi tempi, brillante e irriverente. Non snobba i colleghi più tradizionalisti, anzi fa anche un duetto con Nilla Pizzi per Amico Tango. Ma sente una frenesia, un'inquietudine, una voglia di trasgredire che sintetizza lo spirito di tutta una generazione. E così Gino inizia a guardarsi intorno. È in cerca di un guizzo con cui soddisfare la voglia di cambiare. Non sa esattamente cosa vuole, ma sente che è arrivato a un bivio. Può scegliere di piacere alle mamme e alle nonne, oppure di conquistare anche i giovani, con ritmi scatenati e ritornelli divertenti. Ancora non immagina che il destino, da lì a poco, gli offrirà questo e molto di più, donandogli un incontro che riuscirà a sconvolgere non solo la sua vita, ma l'intera storia della musica italiana. Tra poco, a Destini Incrociati. Vorti casu neguno stemma rete, ma cuppulella capi si era isata, passa scampagnano pituleta, con mano guappu pete fa guardare. Ready? Ok! Tu vuoi fare americano? Destini incrociati. A Destini incrociati è il 1953 e Gino Latilla ha appena trionfato a Sanremo con la canzone Vecchio Scarpone. Il brano è in perfetto stile sanremese, melodie facili e buoni sentimenti, e in breve tempo diventa un tormentone cantato ovunque, celebrato dal pubblico e dalla critica. Gino si gode il successo, ma come spesso succede ai grandi artisti, avverte un'inquietudine, un senso di insoddisfazione, che lo spinge a cercare qualcosa di nuovo. E un giorno, magicamente, il destino gli tende la mano. Gino è a casa, sta preparando un pranzo veloce, non ha voglia di cucinare, poi deve correre a fare un'intervista. I rotocalchi sono molto curiosi della sua vita privata e cominciano a interessarsi alla sua storia d'amore con la famosa collega Carla Boni, nata proprio durante il festival, mentre Gino, si vociferava, fosse fidanzato con Nilla Pizzi. Gino accende la radio. Lo speaker sta raccontando di un autore di canzoni che getta scompiglio a Torino con i suoi testi, che parlano di whisky, bulli e pupe, e notti insonni. Il suo nome è Leo Chiosso, è appassionato di polizieschi e lavora gomito a gomito con un cantante insolito e strampalato. Si chiama Ferdinando, ma è un nome troppo provinciale per lui, che si sente molto più Fred. Fred Buscaglione. Fred Buscaglione. No! Sapete chi sono? No! Sapete chi sono? Niente po' di meno che Fred Buscaglione! Gino è eccitato. Sente di aver trovato quello che cercava da tempo. Deve contattare immediatamente Buscaglione. Vuole lavorare con lui, così diverso e internazionale, con quell'aria da sbruffone e i baffetti alla Clark Gable. Non ha intenzione di perdere un minuto di più e attraverso un amico comune lo chiama. Luogo scelto per l'incontro? Un nightclub buio e fumoso, protagonista del caotico e fantasioso mondo di Buscaglione e locale molto in voga nel periodo, come racconta un critico. Da una parte Sanremo, con tutto il suo bagaglio tradizionale, dall'altra parte qualche cosa di nuovo che sta emergendo. C'è un'area di rinnovamento che non è solo la commedia musicale, ma è anche il diffondersi in Italia dei nightclub. Gino e Fred sono seduti uno di fronte all'altro, bicchiere di whisky in mano e ballerine mezze nude che scendono dal palco dove fanno striptease e girano tra i tavoli. Fred è di casa, quasi una star. Le ragazze lo adorano. Ha un modo di cantare nuovo e modernissimo che strizza davvero l'occhio all'America, eppure le case discografiche non credono in lui e fuori dai soliti circuiti di localacci malfamati non lo conosce praticamente nessuno. Gino ascolta attentamente per non perdersi neanche un dettaglio. Vuole sapere tutto di Fred. Fred, guai a chiamarlo Ferdinando, nasce a Torino nel 1921, da una famiglia originaria della provincia di Biella. È un bambino vivacissimo e dispettoso che organizza scorribande con gli amici del quartiere fin da quando è piccolissimo. La sola cosa che gli interessa, a parte fare gli scherzi ai grandi, è la musica. E così, quando ha 11 anni, viene ammesso al conservatorio. L'occasione è importante, ma la musica classica non fa proprio per Fred. Non riesce neanche a stare fermo sulla sedia, figuriamoci a rimanere composto per ore. E poi il conservatorio è davvero un lusso per i suoi genitori, papà pittore edile e mamma portinaia. Fred abbandona gli studi di musica e inizia a lavorare. Di giorno fa quello che trova, da fattorino all'assistente odontotecnico, ma è di notte che può dare sfogo alla sua vera natura, esibendosi ancora adolescente nei locali come cantante jazz e polistrumentista. Contrabbasso, pianoforte, violino, tromba, tutti i suoni possibili per aiutarlo a esprimere al meglio la sua personalità eccentrica e il suo spirito scanzonato. M'han fatto abile e la guerra finì. Se c'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Miracolosa sarà, ma per piacere io non la posso bere. Perdonate se ho il whisky facile, son sempre amabile, forse bevo così. Fred alterna giornate mediocri e notti sfavillanti, in cui è il grande protagonista di Torino con i suoi ritmi travolgenti e le sue esibizioni sopra le righe. È un mostro da palcoscenico e i media ne parlano così. Un cantante straordinario per inventiva e abilità in scena, Fred Buscaglione, che bambola! Ha la sua cerchia di fedelissimi fan, ma non riesce a conquistare il grande pubblico. È troppo stravagante per piacere a chi è abituato alle canzoni tradizionali. Questo, se da un lato non gli importa perché gli basta suonare, dall'altro un po' lo lascia insoddisfatto, perché vorrebbe che il suo mondo lo conoscessero tutti. Ma un giorno, mentre si sta esibendo sudato ed entusiasta, qualcuno si accorge di lui. Gran caffè ligure, luci soffuse e così tanto fumo che sembra nebbia. I tavolini sono gremiti di gente che bevendo aspetta il grande Fred, l'artista sognatore e randagio che è appena tornato da una tournée nei night delle città di tutta Europa. Quando attacca a suonare, la sala è in delirio, il pubblico incontenibile. Impossibile stare fermi, ballano tutti, perfino i camerieri. In fondo alla sala c'è Leo Chiosso. Sta appoggiato al muro, grande, imponente, è un ex pugile. Scrive canzoni, gli hanno parlato di Fred ed è venuto apposta per conoscerlo. Solo, aria tenebrosa, ha un bicchiere di whisky nella mano sinistra e un sigaro nella mano destra. Così racconta quel momento. Facevo il duro, sono sempre stato uno che non si scioglieva facilmente. Ma vedere Fred muoversi in quel modo, wow, era un brivido. Finito il mirabolante show, Chiosso corre da Fred. Immediatamente intravede in lui, quel giovane in frac dall'aspetto stravagante, l'uomo perfetto per cantare i suoi pezzi, anzi, per inscenare delle vere e proprie performance. E Fred, dal canto suo, intuisce che Leo è come lui, viene dalla povertà, è un assiduo frequentatore di night e coglie la vita a piene mani, a ritmo di swing. Leo e Fred parlano, e tanto, già entusiasti l'uno dell'altro. Leo si dimena, gesticola con la frenesia di chi non vede l'ora di cominciare un nuovo eccitante progetto. Dalla tasca della giacca gli cade un libro, un poliziesco dell'autore americano Damon Runyon, che si intitola Bulli e Pupe. Fred, incuriosito, lo raccoglie e i due si immergono insieme nell'atmosfera di New York degli anni 30. Gangster, duri di cartapesta, donne, alcol, inseguimenti, notti in bianco e tanto jazz. Un mondo raccontato dall'omonimo film del 1955, diretto da Joseph Mankiewicz e interpretato da Marlon Brando, Gene Simmons e Frank Sinatra. Ah, cielo. Per la nostra scommessa sull'Havana sono contrito, ma ora non li tengo i 1000 scudi per pagarti. Grazie per rammentarmelo, Nata. L'hai vinta tu, però. Ma ce l'hai portata, Miss Sara, all'Havana, no? No, Nata. Chiosso e Buscaglione iniziano un rapporto paroliere-cantante che li porta in giro per i night più malfamati. Il circuito è molto ristretto, è vero, e il pubblico molto particolare. Ma quando piacciono, uno nell'ombra e uno sul palco, piacciono davvero. Che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Per non interrompere mai la creatività, vanno a vivere uno di fronte all'altro e durante la giornata comunicano attraverso il balcone. Uno fischietta una melodia, l'altro butta giù le parole in rima. Il jazz sembra improvvisato e per via dei suoi ritmi molto più divertente della musica classica, ma il musicista Emanuele Urso spiega che non è esattamente così. Il jazz poi ha una componente di creatività altissima, quindi che nella musica classica invece è solamente una è praticamente interpretazione, non è altro, perché è interpretazione di note già scritte, di cose già che sono già state messe su carta molti anni prima. La fonte di ispirazione di Leo e Fred è il mito americano rivisitato in salsa a Casareccia e da quell'immaginario attualizzato per l'Italia che attingono a piene mani, come racconta lo stesso Chiosso. Cercavamo di imitare gli americani, ma fu Fred a capire che mentre in quei libri si parlava delle pupe e dei gangster, noi dovevamo pensare alle commesse della standa. L'effetto è strepitoso e Fred, solo a parlarne, si esalta. Inevitabilmente Gino Latilla, che lo sta ascoltando da ora in quel night fumoso, ne è conquistato. Non ha detto una parola, impossibile interrompere l'irruenza di Fred del suo racconto, ma adesso Gino non riesce più a trattenersi e scalpita. Deve anche lui far parte di quel mondo proibito e dissacrante, proprio lui che è il cantante di Sanremo, e deve aiutare Fred. Troppo talento per rimanere relegato al pubblico dei night. Un'altra volta bionda, la serata sta finendo e servi la mia birra dietro il bar. Negroni, whisky, coco, un campanino con la soda e il ghiaccio, il frigo, il rusco, c'è da cambiare pure il fusto. E il cliente già servito e la cassa registrato, l'ultimo drink all'avvocato. Ma se passasse così in fretta come ora che è finita questa serata maledetta. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo negli anni 50 e due interi mondi stanno per contaminarsi con effetti rivoluzionari per le persone che li rappresentano e per l'intera storia della musica italiana. Da una parte Gino Latilla, cantante melodico amato da grandi e piccoli, con una pulsione latente per la trasgressione e che ora sta diventando incontenibile. Dall'altra parte Fred Buscaglione, ironico e strampalato cantante swing che guarda l'America dei gangster, re dei night malfamati, che sogna di farsi conoscere anche dal grande pubblico. I due si sono incontrati, hanno parlato per ore, lavorato gomito a gomito per settimane con l'aiuto del paroliere Leo Chiosso e ora sono pronti per il grande salto. Gino canterà una canzone di Fred, Ciumbala Bay, il nome di un matto a cui piaceva farsi chiamare così. Chiere, Fred, Gino e Leo vanno tutti e tre insieme dal maestro dell'orchestra Rai, Cinico Angelini, per fargli sentire il pezzo. E lui, di solito così composto, non riesce a stare fermo. Batte il tempo col piede, muove la testa, fischietta. È totalmente catturato dal movimentato brano, così diverso dalle classiche canzoni melodiche che all'epoca vanno per la maggiore. Accetta di inserirlo nella scaletta del suo programma, prima con qualche titubanza, e poi sempre più spesso. La gente comincia a cantare il pezzo e Gino è richiesto ovunque per esibirsi. Proprio durante una delle prime esecuzioni, rivela inaspettatamente di avere grandi doti di performer, mettendo in scena una gag nata per caso con Fred, come ricorda lo stesso Gino. E lui mi insegnò questa canzone con Chiosso, solo che sbagliavano sempre, io mi arrabbiai e mi strappai la camicia. Il pubblico applaude credendo che l'abbia fatto apposta. Così Gino decide di ripetere il gesto qualche sera dopo, provocando ancora grandissimo entusiasmo. A questo punto compra uno stock di camicie e inizia a eseguire il pezzo come grande chiusura dei suoi concerti. Il brano contiene una sonora risata, una delle tante sporcature sonore tipiche dei brani di Buscaglione. Fischi, colpi di pistola, sirene della polizia, campanacci e via dicendo. Tutto per il solo scopo di aggiungere immediatezza e vitalità alle sue storie musicali. Il successo è strepitoso. Gino firma un importantissimo contratto discografico e per Buscaglione è arrivato il momento di uscire dall'ombra. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte. Alla Tilla, dopo Ciumbala Bay, si aprono le porte del successo. Partecipa ancora a Sanremo e stravince con Tutte le mamme, un brano classico che conquista tutti. Fred, intanto, continua con il suo solito giro di night, whisky, notti in giro. Ma Gino non è un uomo irriconoscente. Grazie al brano di Buscaglione, ha appena firmato un eccezionale contratto discografico e vuole ricambiare. Sa che deve moltissimo a Buscaglione e crede nel suo talento. Visto che ora ha credibilità ed è considerato un grande della musica italiana, convince un discografico a incidere dei brani di Buscaglione e ne compra migliaia di copie, con lo scopo di reclamizzarle. Tiene in macchina tutti i 78 giri di Fred e quando qualcuno gli chiede un disco glielo dà. Io presentavo più che altro un autore che secondo me era molto bravo, parlo di Fred Buscaglione, capirai. È stata un po' la mia scoperta. Capirai, un genio. In breve tempo tutti parlano di Fred. Impossibile non essere travolti da quei ritmi, dal suo spirito scanzonato, da un modo di fare musica così diverso ed eccitante. Buscaglione finalmente esce dal suo circuito privilegiato, quello dei night fumosi e mal frequentati, ed entra nelle case di tutti gli italiani, con un successo via l'altro scritto a quattro mani con il solito suo paroliere di fiducia e compagno di lunghe avventure, Leo Chiosso. Coccolata, latte, burro, marmellata. Piccola, così. Buscaglione rivoluziona la musica italiana e diventa uno dei punti di riferimento imprescindibili per molti musicisti che verranno, a partire dall'eclettico Tonino Carotone, che dichiara: cantanti come il grandissimo maestro Carosone, Buscaglione, Mina Celentano, Domenico Modugno, Gino Paoli, un po' di questa roba che anche c'era un po' a contracorriente generazionalmente de gente che arrivava del rock and roll o del punk come io, no? Penso che tutto la musica, la cultura non tiene frontiera, tutto si può combinare, no? L'Olimpo della canzone ora ha due nuovi membri, La Tilla e Buscaglione. Si sono contaminati, aiutati, hanno fatto uno la fortuna dell'altro. Il primo, solare, aperto, che piace a tutti. Il secondo, più particolare, che vive un'esistenza eccentrica, fatta di notti brave e sempre sul filo del rasoio, a folle velocità. La stessa velocità che lo uccide, il 3 febbraio 1960, facendolo schiantare con la sua Ford Thunderbird rosa. Testamento spirituale è il film Noi Duri, girato con Totò e scritto con Chiosso, l'amico di sempre. Noi duri, coi volti scuri, scuri, proiettiamo ombre lunghe sui muri. Noi duri. Un duro dal cuore tenero, Buscaglione. Un gangster nostrano amante del whisky e delle donne che con i suoi baffetti alla Clark Gable ha divertito, emozionato e fatto scoprire un'Italia meno provinciale. Un'epoca dai mille volti, quella di Gino e Fred, coppia insolita e geniale. E un destino per loro racchiuso nelle parole di Nilla Pizzi. Io credo nel destino. Ognuno di noi nasce con un destino segnato e prima o poi farà quello per cui è nato. E se al destino aggiungiamo un pizzico di fortuna, è meglio. Perché voglio credere nell'amore, se me traiziona e mi abbandona quando mejor estoy. Lo sabemos muy bien entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.